Benvenuti a tutti quanti, alle signore e signori qui presenti. E un caro saluto e benvenuto anche a Laigia Francato, Felice di Cesaro e a Carlo Romeo, che questa sera ci introdurranno nella nostra nuova rassegna che abbiamo così pensato di avviare con il 2014, dal titolo La ricerca in Alto Adige. Questa biblioteca ha sin dalle origini, cioè da 13 anni a questa parte, da quando è stata fondata, così una mission che è quella di indagare, di documentare, di ricercare il territorio locale nei suoi vari e molteplici aspetti. E in questo senso è stato anche concepito il premio Claudio Augusta, che da quasi 10 anni portiamo avanti, un modo così diverso per ottenere e avere una copia dei lavori che vengono svolti dagli studenti universitari, dalle studentesse, e che in questo modo possono essere messi a disposizione della comunità per ulteriori studi o approfondimenti. Laigia Francato l'anno scorso ha consegnato la propria tesi e quest'anno abbiamo deciso che, visto anche il successo e le discussioni che sono nate intorno al suo lavoro, ma anche l'attenzione che è stata rivolta anche nei confronti di altri lavori, abbiamo pensato di non perdere questa occasione preziosa di conoscere delle persone che lavorano, che studiano e che ricercano, e che hanno delle energie, mettono delle competenze nei loro lavori che poi spesso prendiamo, cataloghiamo, mettiamo a disposizione del pubblico, ma in un certo senso perdiamo questo contatto poi con chi li ha fatti. Ed è un contatto prezioso che vogliamo mantenere e coltivare. Quindi abbiamo pensato di iniziare una rassegna, di dare uno spazio, di trovare un'occasione periodica per dare voce e farci raccontare che cosa hanno individuato con la loro tesi, che cosa hanno scoperto, che cosa è emerso dalle ricerche e dagli studi di tanti anni. E vogliamo iniziare questa sera con Laigia, che ringrazio tantissimo di aver accolto il nostro invito. Il suo lavoro, lo leggo perché è un titolo un po' lungo: I conflitti dell'appartenenza, le immagini del territorio nella letteratura contemporanea dell'Alto Adige Sicuro. Un titolo interessante che ci ha colpito quando abbiamo saputo di che cosa si stava occupando, perché ci siamo sentiti un po' coinvolti con il nostro lavoro di documentazione e l'abbiamo seguita in un certo senso spiritualmente, ecco, non altro, ma abbiamo visto l'evoluzione di tutta questa ricerca. Ecco. Bene, vi lascio subito la parola. Arriva la mia borsa con i libretti. È dentro in ufficio, una borsa vostra, grazie. Ecco, vi cedo subito la parola e vi ringrazio ancora di essere qui con noi. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, anche se le condizioni meteo non sono proprio favorevoli. Dunque, la mia tesi si intitola I conflitti dell'appartenenza alle immagini del territorio nella letteratura contemporanea dell'Alto Adige-Südtirol, ed è una tesi in letterature comparate che ho presentato lo scorso luglio alla Facoltà di Lettere dell'Università di Bologna. Quando ho iniziato questo lavoro mi ero proposta di indagare alcuni aspetti della produzione letteraria dell'Alto Adige con particolare riferimento per il concetto di appartenenza territoriale e per il concetto di senso del luogo. Mi interessava infatti capire i motivi per cui, anche ad un'analisi immediata e per così dire superficiale, agli occhi dello studioso, in quel momento lo ero, il tratto che balzava agli occhi era una differenza per numero, qualità, importanza, diffusione, risonanza delle opere letterarie scritte nelle diverse lingue della provincia, cioè per motivi storici, culturali, demografici, anche politici, esiste sicuramente una sproporzione tra, per esempio, le opere scritte in lingua tedesca e le opere scritte in lingua italiana. In altri termini, insomma, ho cercato di spiegare le ragioni per cui gli scrittori di madrelingua italiana sono numericamente molti di meno e anche meno conosciuti rispetto agli scrittori di lingua tedesca. Questo tipo di indagine richiedeva, me ne sono accorta subito, che io mi rivolgessi anche ad altre discipline che apparentemente non erano direttamente connesse con la mia, ovvero la letteratura. Quindi mi sono dovuta rivolgere oltre che alla geografia e alla storia, che naturalmente sono state imprescindibili, anche ad altre materie, diciamo, ho utilizzato nozioni, si parla licet, di sociologia, di antropologia, anche di urbanistica, intesa come disciplina che studia gli insediamenti umani, e ho dovuto anche consultare libri che avessero un taglio più da inchiesta giornalistica. Per esempio, importantissimo per me è stato Il Calicanto di Magnago di Riccardo Dello Sbarba e Sui Tiro l'Italia Spaesati di Lucio Giudice Andrea. Mano a mano che si delineavano temi e problemi, per esempio, mi sono resa conto che anche in letteratura è centrale la questione dei nomi dei luoghi, ovvero della toponomastica, tanto che ho voluto dedicare un intero capitolo a come gli scrittori la affrontano. Lo slittamento dei nomi, Südtirol è frutto di un compromesso storico posteriore alla Seconda Guerra Mondiale, invece il nome Alto Adige, il toponimo Alto Adige, è un'invenzione dei napoleonici risalente al 1810 ed è un calco fatto sul nome dei dipartimenti francesi come Haute-Loire e Haute-Garonne. Ecco, dicevo, lo slittamento dei nomi, lo smottamento delle identità, la fluttuazione dei confini dovuta massimamente, ma non solo, agli eventi storici del Novecento, hanno determinato su questo territorio che su questo territorio si posasse una pluralità di sguardi. Alto Adige un territorio guardato dalla pianura padana, è Südtirol lo stesso territorio osservato da Settentrione, e queste interessanti condizioni, direi anche insomma abbastanza uniche, si riflettono con una certa precisione nella produzione letteraria. La comprensione delle dispute toponomastiche è veramente essenziale per la comprensione di questo territorio, della sua storia, del diverso senso di appartenenza che genera e anche del diverso modo che si può avere di intenderne la fruizione. A questo proposito vorrei segnalare brevemente due figure e compararle in senso stretto, che mi paiono esemplari e del tutto rappresentative del mio studio. La prima è quella del poeta Norbert Konrad Kaser, che poeta maledetto, inviso all'establishment sudtirolese, che da cui fu sempre ostracizzato fino alla fine, nato nel 1947 e morto a soli 31 anni di cirrosi epatica, peraltro senza aver mai pubblicato un solo verso in vita, che per quanto ostracizzato e sempre tenuto ai margini, anche culturalmente, può, in virtù della sua appartenenza linguistica, territoriale, culturale, che direi è connaturata e quasi inalienabile, scrivere poesie dove nomina con precisione cartografica i luoghi di questa provincia. Allora, i titoli delle sue poesie suonano, ad esempio, come Krank in Rifian, malato a Rifiano, Stegener Markt, il mercato di Stegona, Al posta di Brunico. Kaser scrive anche gli Stadtstiche, che sono delle brevi prose che descrivono le principali cittadine della provincia, comprese Innsbruck e Trento. E la seconda figura, anche se per esempio fa la scelta estrema grafica di eliminare i segni del tedesco, quindi non scrive le scharf SS, non scrive le maiuscole, non scrive le umlaut, e si colloca grammaticalmente, graficamente in nessun luogo. Ciò nonostante è un poeta che esprime un radicamento profondissimo. L'altra figura per contraltare è quella dello scrittore Alessandro Banda, che è nato a Merano nel 1963, quindi quasi una generazione dopo, sì, una buona generazione dopo Kaser, e che, per quanto niente affatto nazionalista, esprime un senso di appartenenza completamente diverso. È naturalmente un autore di madrelingua italiana. Nel 2005 pubblica per Guanda un romanzo che si intitola La città dove le donne dicono di no, dove non parla mai di Merano, ma sceglie di parlare di Meridiano, Meridian. E la sua cifra stilistica è quella di descrivere, deformare grottescamente, descrivere i tic dei suoi concittadini, rovesciando in iperboli tutte le immagini che poi un lettore riscopre nelle sue pagine, ma sempre ammiccando, accennando, ritornando indietro, non nominando mai esplicitamente. Nella città dove le donne dicono di no, lui scrive, parlando di Meridiano, è una città completamente immaginaria. Meridiano non esiste. C'era una consistente fetta di meridianesi che sosteneva che Meridian fosse la forma giusta, storicamente motivata, del nome cittadino, con l'apocope. Un'altra fetta di meridianesi, non meno consistente, sosteneva che Meridiano fosse la forma corretta, senza l'apocope. Nel 2012 sempre Alessandro Banda pubblica un libro per La Terza, che gli è stato commissionato da questa casa editrice, nel quale deve parlare di Alto Adige. Lo deve fare perché la collana Contromano, per la quale è pubblicato questo libro, prevede che ci sia uno scrittore per regione che parli della propria, del proprio luogo di origine. Nel fare questa operazione, già programmaticamente nel titolo, Banda sceglie questo modo, intitola il suo libro così: Due mondi e io vengo dall'altro, tra parentesi il Sudtirolo detto anche Alto Adige. Due mondi e io vengo dall'altro è una citazione dal diario bizantino di Cristina Campo, attraverso la quale Banda di nuovo raffinatamente esprime la sua la propria alterità rispetto alle questioni, per esempio alla questione dei nomi, sentita come localissima. In questa parte della tesi io cerco di fare una carrellata partendo da Franz Tumler, che è un po' il capostipite della letteratura sudtirolese del dopoguerra, passando per Sebastiano Vassalli, diversi autori, Lucio Giudice Andrea, Alexander Langer, Klaus Gatterer, Josef Zoderer, anche Francesca Melandri e anche Lucio Luzzato, che forse non è conosciutissimo, un autore mio. Sì, un autore mio. Tuo, più mio. Lucio Luzzato era un antifascista che dopo la guerra scrive questo libro, diario Di Sulden in Sudtirolo. Lucio nel regno dell'Ortle, come antifascista, questo autore decide di non applicare mai in nessun caso il prontuario di Tolomei. È una scelta programmatica che ben si inserisce, insomma, in questo discorso che sto facendo sulla trattazione dei nomi da parte degli autori. Questa carrellata di autori a dimostrazione del fatto che la questione dei nomi è davvero imprescindibile per chi si occupi a vario titolo di questo territorio. Nella tesi affronto poi alcuni degli aspetti che caratterizzano la cultura, il tessuto sociale e la storia della provincia, nel tentativo di spiegare, attraverso gli esempi letterari, la pluralità di temi, di immagini, di percezioni che vi sono rappresentati. I conflitti dell'appartenenza di cui parlo e che tutti forse un po' conosciamo non furono generati dal contatto tra le due comunità, perché gli italofoni nell'impero asburgico c'erano sempre stati, impero asburgico che a un certo punto conta addirittura 11 etnie e che era un impero abituato anche a tutelarle in un certo senso. Questi conflitti dell'appartenenza reciproca e territoriale furono generati in massima parte dal fascismo, che con la magniloquenza dei suoi monumenti, con l'industrializzazione forzata che voleva fare di contadini tedescofoni abituati a una larga autonomia territoriale, dei cittadini italiani di un regime centralistico e autoritario, con la sua violenza snazionalizzatrice, senza alcuna memoria territoriale. Ecco, fu il fascismo che in larga parte generò la mancata appartenenza dei sudtirolesi allo Stato italiano e la mancata appartenenza degli altoatesini al territorio, come ha efficacemente sintetizzato Lucio Giudice Andrea nel suo libro. Gli italiani erano stati portati in questa provincia a vivere, insomma, coattamente, quasi forzatamente, senza strumenti per capire o integrarsi, furono principalmente visti come usurpatori. Oltretutto, essi stessi alle prese con il grave problema personale di trasformarsi da contadini a operai. Non avevano una lingua comune, non avevano abitudini comuni nemmeno nel mangiare, erano polvere di individui, come li definisce Klaus Gatterer in un celebre discorso pubblico tenuto nel 1981. I sudtirolesi invece, molto radicati, proprietari della terra, hanno sempre mantenuto un legame profondo con il territorio e con la propria comunità e hanno resistito anche ai momenti più bui della dittatura con il loro zusammenhalten, con questo tenersi insieme, riflettendo le proprie secolari tradizioni e la propria cultura nella cura e nell'umanizzazione del paesaggio. I conflitti dell'appartenenza potrebbero essere sinteticamente, forse troppo sinteticamente, descritti così. Gli uni, i sudtirolesi, sono certamente un po' rigidi, hanno una concezione un po' esclusivistica del proprio territorio, e a questo proposito riporto nella tesi alcuni passi del volume Tirolo senza maschera di Carl Techet, curato dal professor Romeo, che scrive, è una cosa che mi ha fatto molto ridere: un sentimento di rispetto deve infondersi in chiunque studi un popolo sul quale invano il tempo cerca di lasciare traccia. Il tempo sgretolerà le piramidi, spianerà le montagne, ma la sua forza nulla potrà mai sul Tarroi. Tarroi era l'eufemismo con cui naturalmente l'autore si riferiva al Tirolo. Spesso credo la comunità sudtirolese non capisce i rischi che corre, ad esempio dal momento in cui si è votata massicciamente al turismo montano, cancellando l'immagine del fondovalle e dei grandi fiumi che lo solcano, perché zone percepite e ritenute come italiane. Non si rendono conto che la tutela del paesaggio sconfina certe volte, questo l'ho trovato negli studi degli urbanisti, nell'ipostatizzazione di una scena funzionale alla fruizione turistica, cioè il paesaggio viene un po' mantenuto in quanto piace al turista. Viene mitizzata contestualmente la figura del Bergbauer, del contadino sudtirolese, come figura incorrotta, soprattutto se è pura, a contatto con la natura, soprattutto se confrontata con la forza corruttrice della città. Ignorano, questo forse un po' tutti, in larga parte, che la montagna non è bella in sé e forse non rimarrà bella per sempre, che il concetto di montagna come locus amenus, come luogo turistico, ma anche come locus amenus, è un concetto recente, è un concetto nato nel tardo Settecento con la poesia descrittiva, poi codificato dalla pittura romantica, e solo a partire da quel momento che si sdogana l'immagine della montagna come luogo dove si possa provare piacere estetico. Foscolo, nelle ultime lettere di Jacopo Ortis, parla della Valle del Roia come di un luogo terribile, spaventoso, inadatto alla vita degli uomini. E i viaggiatori nordici che venivano in Italia per il Grand Tour, al momento di valicare i passi alpini, si facevano bentare perché la montagna era percepita come un luogo orribile. Gli altri, quindi, gli altoatesini, sono tuttora piuttosto restii a imparare la lingua tedesca, difficilmente leggono i giornali e conoscono la realtà dell'altra comunità. Ovviamente non è questa è una generalizzazione, ma insomma pensano che la propria provincia sia gretta e hanno come riferimento culturale quasi esclusivamente l'Italia, perché sono oltretutto vittima di un pregiudizio che è tipicamente italiano. Questo l'ho trovato trasversalmente in moltissimi autori, anche di discipline diverse, il pregiudizio nato nel periodo dell'industrializzazione primo Novecento in Italia, per la quale la dimensione rurale è da disprezzare, è gretta, arretrata e soprattutto culturalmente subordinata alla città. Nella quarta e ultima parte della tesi, che è quella un po' più lunga, quella poi più eminentemente letteraria, io ho analizzato nello specifico, dopo avere insomma un po' dispiegato questa griglia, quattro autori diversi per dati anagrafici, per madrelingua, per il tipo di approccio. Ho voluto rispettare una sorta di proporzionale linguistica, anche se... Anche tu. Sì. Ma è stato l'escamotage con il quale ho fatto accettare al relatore tutti questi autori. Perché lui ne voleva di meno, era molto spaventato. Allora io ho detto, ma qui bisogna rispettare... Era da bolognese, l'ho un po' irrettito così, e dicendo, devo rispettare un po' una proporzione linguistica, perché insomma i tedeschi sono di più, non posso mettere uno... Allora insomma ho scelto... Un'astuzia, insomma. Ma sì, ho dovuto, però si impara, perché sennò... sarebbe stata la fine per me. Ecco, quindi una proporzionale linguistica, insomma, ecco, ho scelto due autori di madrelingua tedesca che mi sembravano significativi, ho scelto un'autrice italiana e lì la scelta è proprio stata un po' obbligata perché non ce n'erano altre, ma è stato poi tutto molto utile. E una ladina, la poetessa Roberta D'Aponte. Il primo autore di cui parlo è Klaus Gatterer, nato nel 1924 e morto nel 1984, che fu uno storico, un giornalista, visse a lungo a Vienna e lavorò anche per l'emittente nazionale ORF, fu uno scrittore e fu un intellettuale imprescindibile per chi insomma compia questo tipo di studi. In particolare analizzo nella sua grande produzione il suo Heimatroman del 1969, Bel paese, brutta gente, questo qui tradotto da me, da Finuccia di Gesaro, che infatti sono molto contenta sia presente. Lo Heimatroman è il romanzo della Heimat, il romanzo del luogo natio, che è un genere che è estraneo alla tradizione letteraria italiana, già questo di per sé è significativo, e che è il racconto dell'infanzia e dell'adolescenza di Gatterer, che era nato a Sesto Pusteria in una famiglia di contadini di montagna pochi anni dopo l'annessione del territorio all'Italia, e che romanzo che si conclude nel 1943, quindi 2 anni prima della fine della guerra. Si tratta di una ricognizione personale, nello stesso tempo esemplare, degli eventi storici travagliati di quegli anni, ed è il percorso conoscitivo necessario dell'autore, sospeso tra un profondo senso di appartenenza al territorio e invece di una necessaria bildung, di una formazione, di un'identità sottoposta a grandi tensioni. Una ricostruzione però molto interessante, molto valida, perché sempre aliena da giudizi, accuse, tentazioni assertorie. Il punto di vista di Gatterer è quello di un contadino che trae dalla terra, dal territorio, il proprio sostentamento ed è estraneo da visioni o descrizioni o approcci codificati dall'arte. Tra le pagine più memorabili, penso, anche se il romanzo è tutto bello e tutto significativo, ci sono quelle in cui Gatterer esprime con grandissima sensibilità e profondità il dissidio tra la cultura della casa paterna tedesca e quella, la cultura degli insegnanti italiani, i suoi maestri. Scrive delle pagine veramente bellissime, e allora io vorrei leggere, se posso, queste citazioni. Allora, immaginatevi gli alunni a scuola che aprono i libri, alunni tedeschi che aprono libri di testo italiani usati in tutta l'Italia. Gatterer scrive: per noi la casa era una casa tirolese con il suo bel frontone, mentre le case del sillabario erano tutte piatte con i tetti di tegole rosse. Che pagina sei? 51-52. La nostra chiesa faceva corpo unico col campanile, nel sillabario c'era mostrata col campanile staccato e le campane che suonando sporgevano all'esterno. I campi del sillabario erano sconfinati, mari di solchi che si perdevano all'orizzonte, ma che ci sembravano anche disordinati, al contrario dei nostri, che dopo l'aratura venivano spianati con la zappa e l'erpice, tanto da non lasciar più vedere il tracciato dei solchi, quindi paesaggi completamente diversi. Parlando dei maestri, e sempre a proposito dell'appartenenza territoriale, Gatterer poi scrive, poco più sotto mi pare: in cambio ci davano, i maestri, la bellezza di Roma e la ricchezza di Milano, l'operosità di Torino e l'idilliaco vulcano di Napoli, ma noi sentivamo istintivamente che tutto questo non poteva mai essere nostro, che questo mondo ci aveva comprati strappandoci da quello dei nostri padri e, come se non bastasse, ci obbligava a rinnegare il nostro. Per loro, per i maestri, per loro noi eravamo dei barbari. E qui io sono andata a vedere, la traduzione è perfetta, ma io sono andata a vedere l'originale tedesco, perché barbari, io sapevo che non vi è un corrispettivo tedesco della parola barbaro, e mi è sembrato molto significativo questo. Infatti l'originale tedesco dice wir waren Heiden für sie, per loro noi eravamo pagani. La parola barbaro non esiste in tedesco, perché loro sono i barbari. per esempio, e anche la storiografia italiana e francese usa comunemente l'espressione le invasioni barbariche, che però significativamente in tedesco adesso meno viene da Pagus. Da vent'anni circa si usa di meno, ecco, lo storico interno. Politicamente corretto ha fatto sì che barbaro, giustamente. In tedesco si dice Völkerwanderungen, le migrazioni di popoli, che ha tutta un'altra valenza, un altro impatto, un'altra valenza, certo, culturale. Ecco, questo era Gattere. Io devo fare in fretta. Comunque il secondo autore. Perché fai in fretta? No, perché non voglio annoiare nessuno. Ma... il secondo autore che io analizzo è un altro tedesco. Naturalmente, da un certo punto di vista, non poteva che essere Josef Zoderer, che è nato nel 1935. È un autore vivente, oggi risiede in Valpusteria. È nato a Merano e ha vissuto lungo tempo a Graz, perché è figlio di una famiglia di optanti, quindi di una famiglia che aveva scelto di emigrare nel Reich al tempo delle opzioni. Io analizzo in questo capitolo della tesi il suo romanzo Der Schmerz der Gewöhnung del 2002, che è stato tradotto poi nel 2005 con il titolo Il dolore di cambiare pelle, che è tra le opere di Zoderer un romanzo della maturità compositiva, è una sorta di bella e alta sintesi dei temi della sua scrittura. Il libro parla della fluidità e della necessaria approssimazione del concetto di appartenenza, del tempo che cambia i desideri, le percezioni, i ricordi, le esigenze delle persone, attraverso il matrimonio tra un sudtirolese di madrelingua tedesca e una donna mistilingue di madre sudtirolese tedesca e di padre agrigentino fascista, alto papavero del regime, portato in provincia per italianizzare il territorio. Questo libro per me è interessante perché il territorio e il paesaggio e le loro descrizioni sono lo specchio della relazione tra i due, della loro storia personale. E per esempio, no, forse questo avevo deciso di non. Zoderer tratteggia l'ambiguità delle diverse appartenenze, smontando i luoghi comuni, anche molto efficacemente. Lui è tedesco, ma lei sa sciare meglio. Quando la coppia decide di andare a vivere in un maso un po' isolato della Valpusteria, lui si sente più a casa, come per un diritto datogli dalla madrelingua, ma è lei che ha trascorso lì tutte le sue vacanze di ragazza perché la famiglia possedeva una casa, che ha i veri riferimenti territoriali, che ha più familiarità con questi luoghi. Quindi i limiti concettuali dell'appartenenza sono continuamente spostati in una struttura narrativa molto complessa e molto convincente, fino al rovesciamento finale di tutti questi sentimenti, causato, diciamo, dalla morte tragica della figlioletta, pare per annegamento, pare per una negligenza della madre. E a questo punto Yul decide, il protagonista, di intraprendere, malato, gravemente malato, in punto di morte, decide di intraprendere un viaggio verso Meridione. Questo lo cito perché poi sarà importante quando passerò a parlare di Eva Dorme. Un viaggio verso Meridione, lui va ad Agrigento nel tentativo di capire, cogliere l'ultimo residuo di appartenenza della figlia morta, anche se ormai è consapevole che è troppo tardi per tutti, per ricostruire il mondo del siciliano, del suocero mai conosciuto. Mentre Mara, che rimane a casa, raggiunge una consapevolezza così amara della propria appartenenza e dolorosa, nello stesso tempo imprescindibile e in qualche modo sorprendente per il lettore. E Mara dice così a un certo punto, lei che è mistilingue dice questo: Mara lo capisce, dice, sì, è anche casa mia, eppure in me c'è ancora qualcos'altro che tu non hai e che forse per questo non capirai mai veramente. In me ho una madre tedesca e un padre siciliano. Forse è un vantaggio, dice Mara, eppure mi manca qualcosa che gli altri hanno. La sicurezza. È senz'altro più facile appartenere con sicurezza a un luogo. Ecco, questo è Josef Zoderer. Ho citato il viaggio verso Meridione perché la terza autrice, che come dicevo prima è stata un po' una scelta obbligata, è naturalmente la romana Francesca Melandri, che è nata a Roma nel 1964, dove tuttora risiede, ma che ha trascorso 15 anni in Alto Adige, dove sono nati anche i due figli mistilingui. Il suo romanzo Eva Dorme ha avuto un grandissimo successo di pubblico e anche di critica, ed è stato un po' indicato come il libro che finalmente riempiva un vuoto editoriale, finalmente un'opera, diciamo, scritta, un'opera efficace e riuscita, scritta sull'Alto Adige in lingua italiana da una italiana, sì, non mistilingua. Il libro l'avrete letto in molti, se non tutti, è la storia del Sud Tirolo, presentata secondo date programmatiche progressive, che si intreccia alla storia di una famiglia sudtirolese e si intreccia anche a un viaggio fatto verso il meridione d'Italia, anche lì alla ricerca di un della figura di un italiano importante, ecco, emotivamente importante per il protagonista sudtirolese in entrambi i romanzi, ecco questo. E questo è l'escamotage narrativo. Ecco, le debolezze di cui io scrivo nella tesi, e che poi è stato l'aspetto che è stato anche un po' che ha interessato, se vogliamo, anche è stato anche un po' ripreso dai giornali. Le debolezze di questo romanzo, secondo me, sono dovute proprio alla precisione didascalica e poco spontanea della scelta dei temi, a dei particolari dello stile, che sono per esempio la ricerca dell'effetto un po' macchiettistico, del colore linguistico di sicuro impatto sul lettore. Per esempio con l'inserto frequente, un po' artificioso, di continui contrappunti di parole tedesche o di parole dialettali, alla ricerca mi è sembrato dell'effetto un po' facile. Ecco, mi sembrava che il libro mancasse di urgenza narrativa, perché per esempio scrive, insomma, cose come Gerda nella cucina dell'albergo, certo ogni passo estrapolato può, insomma, decontestualizzato perde di efficacia, però insomma nel libro io ho letto cose che mi hanno veramente colpito, ecco, difficili da apprezzare. Ho letto passaggi come lo strudel senza il quale nessuna vacanza in Alto Adige è degna di questo nome, che non mi sembravano, ecco, molto convincenti. Oppure c'è un passaggio che a me piace citare, perché lei scrive questo: allora Eva, una delle protagoniste, si trova a Roma, deve procurarsi il biglietto per cambiare treno alla metropolitana, però è presto, le biglietterie sono chiuse, l'automat è rotto, e lei dice: io sarò anche di etnia germanica, ma la mia provincia fa parte da troppo tempo dell'Italia perché possa albergare questa illusione. Allora a me è proprio sembrato che un tirolese non potesse mai parlare o pensare in questo modo. E allora sono andata a prendere la traduzione tedesca di questo romanzo e ho visto che effettivamente la traduzione è un'altra cosa, perché il concetto di etnia germanica proprio non è esprimibile in tedesco. Un tedesco non direbbe mai una cosa del genere. E infatti il traduttore dice: Nun mag ich selbst solche Wurzeln haben, doch die Provinz aus der Radici. Allora deve scrivere proprio un'altra cosa. Germanico è un aggettivo che usano gli storici, vero? Che usano i linguisti, che usano i filologi. Ecco, queste cose mi hanno molto colpito. In più mi è capitato, leggendo e rileggendo una dietro l'altra queste opere, insomma, con una certa sorpresa mi pareva di trovare diverse concordanze testuali, diversi punti comuni. Ed essendo Eva Dorme l'ultimo dei libri pubblicati, ovviamente le concordanze erano a senso unico, per così dire. Io non voglio neanche in questa sede insistere troppo sulla questione, però insomma io ho compilato un dossier a un certo punto che mi ha anche costato diversi mesi di lavoro, devo dire, forse mi sarei laureata la sessione prima, scusate se lo dico, ma ecco, in cui proprio la scelta dei temi era veramente poco spontanea, e per esempio una parte della struttura della trama, la descrizione della flora mediterranea, che in alcuni punti coincide abbastanza con la descrizione delle discariche, le descrizioni paesaggistiche, anche quelle non locali, per esempio, erano molto debitrici del modo che ha Zoderer di scriverle, di insomma. Ecco, i prestiti maggiori, e sono contenta che Pinuccia sia qui, però sono alcuni gli autori, sono dello Sbarba, sono Giudice Andrea in misura minore, ma i prestiti maggiori, calchi, concordanze, che dir si voglia, vengono da Bel Paese, Brutta Gente. Ma vengono da Bel Paese, Brutta Gente proprio, nel senso che vengono dalla sua traduzione italiana. E a me è sembrato di trovare tanto della cadenza di Pinuccia in questo Eva dorme, insomma. Adesso io non occorre forse che legga... No, leggili, no. Ci sono belli. No, erano stati messi anche sul Corriere dell'Alto Adige, insomma. No, leggili da te, che sono più belli. Ecco, leggili quando Eva... Quando no, adesso li legge lei, no perché devo parlare anche della Roberta. Vai, devi parlare anche delle poesie. Insomma, sì, infatti, no, ecco, ci sono degli episodi, se posso dire, questo ci tengo a dirlo, proprio quelli che di maggior impatto sul lettore. Ecco, questi sono presi abbastanza da Bel Paese, Brutta Gente. Allora, quando Gatterer parla della costruzione dei gabinetti all'avvento del turismo negli anni 30, quindi precedentemente alla Seconda Guerra Mondiale, finalmente il maso della famiglia di Gatterer viene dotato di un gabinetto perché serve ai turisti. Allo stesso modo la Melandri riprende questo episodio, lo pospone, e devo dire che cronologicamente è anche più credibile Gatterer, perché negli anni 60, quando lo colloca lei temporalmente, erano pochi i masi ancora con il sistema a caduta, insomma, per entrare nello specifico. Oppure quando parla delle bestemmie, il famoso tema delle bestemmie, che i sudtirolesi, linguisticamente non assimilabili, però bestemmiavano in tedesco. Ecco, questi no, sì, sì, in italiano, certo, scusate, in italiano. Ecco, no, no. Oppure la storpiatura dei nomi che in Gatterer è fatta dagli insegnanti italiani mandati dal regime, che disprezzano i propri alunni e i loro nomi. E invece in Eva dorme c'è l'escamotage della mamma calabrese del carabiniere, di cui si innamora la protagonista su tirolese, che dice: Gerda, questo nome mi fa scantare, ma può un cognome, e citano Schwingshackl tutti e due, tra parenti, e Churchenthaler, entrambi gli autori, può un nome iniziare con una consonante e finire con una consonante, questo nome mi fa scantare. Ecco, io non mi dilungo su questo aspetto, voglio solo dire che a me Eva dorme è sembrato un romanzo molto debole, cioè laddove Melandri scrive le sue cose non convince, è un po' didascalica, un po' imprecisa, un po' poco convincente. Lì dove invece risulta più convincente, più strutturata, a me è sembrato che fossero in realtà dei prestiti da questi altri autori, e io nella tesi riporto alcuni degli esempi delle concordanze che mi sono sembrati più significativi. Molto elegante prestito, perché il prestito si presuppone no, che si debba... No, io non l'ho mai detto, che la mente copia e basta. No, io questo... Ma lei è elegante. No, non sono elegante, sono prudente, perché... Ecco, e quindi non ha copiato, si è solo fatta molto influenzare. E... Le conclusioni a cui giungo nella tesi sono proprio queste, che non poteva che essere così, perché per queste differenze della percezione territoriale un autore italiano, almeno fino ad oggi, poi noi siamo tutti molto in attesa, un autore italiano non può che rifarsi all'immaginario di letterariamente, non può che rifarsi all'immaginario di altri autori, e così lei ha fatto, secondo me, Francesca Melandri, con dei meriti che sono quelli di avere fornito un pozzo di informazioni ai lettori, con il merito anche di essersi documentata moltissimo, con una facilità di penna che ha raggiunto moltissimi lettori, e di questo bisogna renderle merito. Io però volevo fare un discorso diverso e spiegare Ecco, che però ci sono delle conseguenze culturali da trarre da questa operazione, cioè la mancanza di un immaginario e quindi la mancanza di una appartenenza territoriale vera da parte della comunità linguistica italiana. La quarta e ultima autrice, poi finisco, è la ladina Roberta Dapunt, che è nata nel 1970, è una poetessa che vive in Valbadia in un maso storico, lei è anche una contadina, ha ereditato questo maso insieme al marito che è uno scultore, e lei ha la particolarità che, pur essendo di madrelingua ladina, scrive la maggior parte delle sue raccolte in italiano, pubblica per Einaudi, ha pubblicato anche questo autunno un libro, l'ho visto qui esposto, Le beatitudini della malattia. Per lei l'italiano, io ho avuto dei lunghi colloqui con Roberta Dapunt, per lei l'italiano è una scelta intellettuale, è una lingua di elezione letteraria, come lei stessa dice, una lega che dà maggiore valore ai suoi testi. Io credo che scrivere in italiano le serva a mettere un filtro tra la scrittura e il proprio mondo, le serve a prendere le distanze linguistiche dal suo mondo, a sperimentare un consapevole estraneamento culturale che riflette quello che lei chiama il suo dovere di appartenenza al maso di famiglia, un dovere di appartenenza che non si è mai veramente trasformato in una condizione naturale e spontanea dell'essere, cioè un'appartenenza molto sofferta. E lei scrive in una poesia secondo me bellissima, infatti: non conosco fuga né mai ripiegai le mie radici, ma qui dentro i paesi delle mie genti conosciute, dentro questo tempio di valori educati e delle molte solitudini vicine di casa, io sono in esilio, in mezzo agli alberi, dentro all'erba, sotto i fiori, io sono la zolla staccata dei campi coltivati. La sua poesia, in questo mi ha stilisticamente ricordato culturalmente ricordato Gatterer, entrambi infatti sono contadini, è aliena da estetismi, l'idillio paesaggistico le è, o naturalistico le è completamente estraneo. Lei scrive: non la trovo. Questo? No. Non è questa che c'è. Questa. Sì, allora lei scrive: civiltà contadina, contata ormai in poche mani, mentalità imprescindibile, semente nostra da salvare, possidente di una manualità che non conosce il giorno di riposo e tiene il merito a fronte alta di abitare la montagna. E dunque espongo in questi versi, a te che passi, un punto di vista, che una stalla non è il volto della modestia, bensì il tornaconto dei concimi versati. E se qualcuno è stato a qualche presentazione di Roberta Dapunt, io mi scuso perché confronto a come le legge lei, non sono ascoltabile. Però ecco, questo per dire il profondo radicamento di Roberta Dapunt, sperimentato attraverso una lingua che non è la sua. L'unica raccolta che lei scrive in ladino si intitola Nauz, una raccolta del 2010. Nauz è in ladino la parola che significa trogolo del maiale, da dove mangia il maiale. L'unica raccolta ladina della sua produzione, e lei motiva questa scelta linguistica dicendo che queste poesie sono il frutto del suo apprendistato linguistico, che il vocabolario dei contadini di montagna badioti le era estraneo, perché Roberta Dapunt è di estrazione proletaria ma non contadina, lei fa la contadina nel momento in cui si sposa e va a vivere a Chaminades, e dice che per esprimere la precisione dei concetti legati al lavoro manuale che lei svolge tutti i giorni insieme al marito, non poteva che usare un vocabolario che lei stessa però ha dovuto apprendere per quanto di madrelingua ladina. Nauz è una raccolta che parla della maialatura, dell'uccisione del maiale, rituale annuale della lavorazione delle sue carni. Una poesia da Nauz, brevemente, e poi ho quasi finito, dice questo: ben descrive il suo anche travaglio linguistico nell'approccio a questo vocabolario così specifico che, ripeto, non le apparteneva, come non le appartiene completamente né la vita che fa né la terra su cui vive. È in ladino la poesia, ma esistono delle traduzioni italiane scritte dalla stessa Da Punt. Verso ladino, quale inquietudine scriverti? Osserva dalla finestra e vede soprattutto tempo e stagione. Neppure un pensiero, agente ladina, nessuna patria. Le radici, sollevarle, sradicare occhi e orecchi, andarsene e lasciare che mani e piedi percorrano pasture più feconde. Nutrire, impolpare parole e punto di vista e infine guardarsi indietro come attraverso un orifizio. E quindi, per concludere, io nella tesi ho intitolato questo paragrafo "In luogo di una conclusione", forse immaginandomi che qualcuno me l'avrebbe contestato. Mi è stato detto che in realtà alla conclusione sono giunta, e come, una conclusione parzialmente sbagliata, ma insomma io scrivo che penso che tutt'oggi si possa dire che una letteratura italiana, diciamo, che abbia risonanza fuori di questa provincia vada studiata in quanto non c'è. Ed è da questo assunto che io sono partita per cercare di spiegarne le ragioni. Io credo che la comunità italiana non abbia ancora espresso un autore che si sia appropriato di questo territorio e che comunichi quindi un vero senso del luogo. D'altro canto, 100 anni di permanenza siamo anche pochi, 100 anni di permanenza in un territorio forse non sono abbastanza, soprattutto con le caratteristiche che ha avuto insomma culturalmente l'arrivo degli italiani in questa provincia. Io credo che anche l'estraneità linguistica al tedesco, al dialetto degli italiani, abbia un ruolo, cioè chi non padroneggia la lingua di un ruolo difficilmente lo capisce fino in fondo e quindi non lo può rappresentare letterariamente. E credo che chi voglia studiare la provincia di Bolzano dal punto di vista della sua letteratura debba in massima parte rivolgersi ancora oggi ad autori tedeschi. Credo, per le ragioni che vi ho spiegato, che Melandri non sia una rappresentante autorevole delle cose locali, perché ha una dipendenza concettuale troppo grande dagli altri autori. L'unica eccezione è data da Roberta Da Punt, che per i conflitti della propria appartenenza si trova a essere l'unica rappresentante, se non di lingua italiana, almeno in lingua italiana, ed è l'unica che scrive in italiano anche se non è la sua madrelingua. E ecco, io concludo dicendo che sono anch'io fra coloro che si augurano che il concetto di appartenenza linguistica sia superato in favore di quello di appartenenza territoriale, ma di un'appartenenza territoriale comune, condivisa, che mi piacerebbe vedere da persone interessate alla letteratura quale tipo di opera letteraria potrebbe nascere da un contesto culturalmente diverso, integrato, fluttuante e non rigido, che queste cose esistono in letteratura, che la letteratura può contribuire a formare degli individui diversi e cambiare le percezioni. Io credo che il libro di Zoderer lo abbia anche fatto, per esempio, ma anche il libro di Gatterer. Ho i miei dubbi invece sull'autrice italiana. E ecco, queste cose in letteratura esistono, insomma penso agli scrittori turchi di Germania di seconda generazione che scrivono in tedesco, penso a Ornella Vorpsi che è di origine albanese ma scrive in italiano, penso a Zadie Smith a Londra, spertichiamoci. Ecco, è quello che io sarei curiosa di vedere, quello che mi auguro per me e per le generazioni future. Sono andata per ultima, no. Se siete stremati, nessuno. E ecco Carlo bene, Romeo, che ringrazio tantissimo di essere venuto. Ecco. Beh, io devo dire, non mi sono preparato, non pensavo neanche di essere messo sul palco, dovevo semplicemente così fare un intervento sulla scorta degli spunti che venivano, e ne sono giunti molti. Diciamo che Io mi sono interessato della produzione letteraria in lingua italiana da molti anni, per cui quando sui giornali, insomma, è stata presentata questa tesi, mi avevano chiesto un commento, come spesso fanno i giornalisti telefonandoti alla sera, e soprattutto su cose di cui tu non hai, come dire, non conoscevo la tesi, non ho potuto neanche leggerla dopo. Questo pomeriggio era rilegata, quindi mi è stata consegnata, ho fatto giusto una, però c'erano due punti in sostanza. È un peccato che la tesi sia stata come dire, presentata solo per l'aspetto relativo al romanzo di Eva Dorme, perché in un certo senso è solo uno degli aspetti del libro. Poi è chiaro che i giornali amano, amano la polemica, per cui insomma alla fine la discussione si è praticamente ridotta, no? Solo tra chi era pro, chi era contro il romanzo. E, un minuto, premetto, do la mia posizione su questo e poi lo togliamo, insomma, a me il romanzo è piaciuto abbastanza, non mi ha entusiasmato, non ho mai, non condivido il giudizio, giudizio di primo romanzo italiano sull'Alto Adige, però è un romanzo che ho definito efficace, nel senso che è una scrittrice dotata di grande talento, di grande vena narrativa che appassiona, e ovviamente da storico io chiaramente noto un po' una superficialità nell'impostazione, cioè nel senso che paradossalmente io apprezzo più l'aspetto letterario rispetto alla contestualizzazione storica. E comunque, oltre ai riferimenti, io ci ho visto molto del film Verkaufte Heimat, il Mitterer, che era stato lo scrittore del film, si era ispirato a sua volta molto a Gatterer, Schöne Welt, Böse Leute, Schurzenthaler, la scena con il maestro, c'è anche nel film. E quindi, chiuso questo discorso, in generale io direi che la letteratura italiana vada ricercata forse non non in titoli come dire, di grande rilievo nazionale. Come mai non abbiamo avuto scrittori che parlassero dell'Alto Adige, capaci di uscire dai confini? Questo è un discorso interessante. E probabilmente per quello che diceva Vassalli, e cioè dell'invisibilità del gruppo italiano. Ecco, è un complesso, una specie di complesso che il gruppo italiano si porta dentro, cerca in qualche modo di reagire, ma insomma ciò che interessa di più all'esterno, per esterno intendo oltre i confini della provincia, beh, è l'immagine tedesca su tirolese, ma semplicemente perché è quella tradizionale, insomma è l'elemento che differenzia, caratterizza l'Alto Adige su Tirol per il turista, per chiunque insomma voglia conoscerlo. Per cui il mondo italiano è un mondo cittadino, urbano, ci sono tantissimi titoli, è una produzione che soprattutto in questi ultimi anni sta crescendo. Io l'ho studiata addirittura ai tempi del fascismo, cioè Tolomei stesso, visto che non c'era una letteratura italiana in Alto Adige, cominciò lui stesso a scrivere drammi, romanzi, liriche. Poi ci sono le novelle pubblicate da Mastro Mattei, il prefetto, che faceva dei bandi, dei concorsi per novelle che fossero ambientate in Alto Adige, quindi era proprio un invito a produrre, perché anche la letteratura è una forma di marchio nazionale, cioè era quel periodo che io ho chiamato la documentazione, cioè letteratura come documentazione nazionale, così come c'erano gli studi archeologici, gli studi geografici, bisognava che anche che l'Italia si impadronisse del territorio anche da un punto di vista letterario. Un po' come facevano il CAI con i rifugi, cioè diciamo scrivere un romanzo sull'Alto Adige voleva dire beh, questa terra è italiana, scriverlo in lingua italiana. E poi quando è che il discorso della se una letteratura italiana c'è o non c'è è abbastanza antico, e visto che si citava prima Caser, questo poeta così importante, ribelle, Caser polemizzò con uno studioso tedesco, anzi dell'Austria, che aveva scritto nella prefazione a un'antologia di poeti tedeschi del Südtirol, aveva scritto ecco qual è la differenza tra i sudtirolesi e gli italiani che sono arrivati da poco, che loro non hanno una letteratura e questo mostra le scarse radici sul territorio. Ebbene Caser si imbestialì e scrisse uno dei suoi commenti proprio più acidi, questo non capisce niente, vuole staccarci, vuole che il Sud Tirolo stacchi i collegamenti che ha sempre avuto con il Sud. Gli italiani produrranno, diceva Caser, e citava Gianni Bianco, che era un giovane, allora era studente, poi è diventato un giornalista molto noto, famoso, aveva scritto un romanzo premiato dal CUC, dal Circolo Universitario Cittadino, che poi era stato pubblicato, che si chiamava La Casa sull'Argine. E Caser lo presentava, ecco qui c'è il primo romanzo italiano sull'Alto Adige. In effetti il romanzo parlava di un giovane italiano che viveva in città, c'è la descrizione di Bolzano molto realistica, la vita un po' scioperata di questi giovani e che incontra una maestrina tedesca e si innamora, un amore tormentato perché la pressione ambientale vede male, erano gli anni delle bombe, insomma, per cui insomma questo amore contrastato era una storia, secondo me una valse ante litteram, insomma, no? Era una storia ambientata in un Sudtirolo diviso, in un Sudtirolo dove insomma il conflitto etnico impediva i rapporti tra i gruppi linguistici. Qual è la grande differenza? Io penso che i sudtirolesi abbiano una letteratura perché sono un gruppo popolare che, come dire, vive una tradizione ininterrotta. Io quando sono andato per la prima volta a vedere il centro di documentazione per la letteratura del Sudtirolo, che è un ufficio, un grande ufficio in cui viene raccolto ogni cosa che viene pubblicata in Südtirol, ebbene ho visto la grande differenza, cioè il gruppo italiano non ha un centro di documentazione se non adesso, da qualche anno, la biblioteca provinciale. Infatti io vengo spesso qui per vedere le cose che mi sfuggono, ma questa idea di catalogazione, di archiviazione ci è praticamente estranea per un dato storico, cioè praticamente un po' il gruppo italiano, la varietà regionale, i legami più forti che ha con la cultura nazionale hanno fatto sì che non si creasse una stratificazione. Quanti adesso ricordano Adige Panorama, una rivista che per 15 anni ha raccolto i poeti locali, ha pubblicato centinaio di libri, oppure insomma praticamente il gruppo italiano non ha memoria o ne ha poca e quindi ogni volta si ricomincia da capo e sembra che non ci sia nulla, invece qualcosa c'è. E in un certo senso io qui faccio come dire, visto che la conclusione era non c'è uno scrittore, no, ce ne sono, solo che non dobbiamo aspettarci quello che scrivono autori su tirolesi, cioè la vita del Maso, il mondo rurale, le opzioni, i drammi, come dire, storici. È ovvio che sono visti da un'altra prospettiva, che a volte è stata una prospettiva del tutto opposta e anzi antagonista. E quando la Melandri ricostruisce la storia del Sudtirolo con questi brevi quadri, questa voce fuori campo, no? che parla anche per pagine, e, beh, quella è una prospettiva fatta più sulla lettura di manuali. Per trovare la voce italiana bisogna andare sulle memorie. La memorialistica italiana c'è, come dire, poteva essere forse rafforzata, forse non c'è stata una politica che abbia favorito questo, non so, tra le varie attività di promozione, quello forse della letteratura è stato quello più difficile, ecco, da mettere in moto. Se facciamo un confronto, non so, tra la promozione artistica, cinematografica, la promozione persino dei cori, del teatro, rispetto alla scrittura, il gruppo italiano, devo dire, ha qualche deficit. E poi vediamo, prima di chiudere, cioè tipo, non so, un romanzo come una vita, ecco, della Costa, che è la storia la storia dell'emigrazione, cioè diciamo che tocca Bolzano in gran parte, però parte dal Bellunese. Ebbene, quello è secondo me un romanzo che potrebbe stare tranquillamente alla pari con un romanzo vissuto dei sudtirolesi, cioè è una storia di contadini del Bellunese che poi sono spinti ad emigrare, si fermano a Bolzano, qui non c'è lavoro abbastanza e quindi questa emigrazione continua in Svizzera, insomma. Oppure un altro libro che non smetterò mai di sottolineare è quello di Romana Pucci, L'uva barbarossa, che è secondo me, adesso così dico, è secondo me il miglior romanzo scritto, diciamo il miglior romanzo ambientato in Alto Adige come qualità narrativa. Romana Pucci è vissuta a Bolzano per non tantissimi anni, è venuta durante la guerra e se n'è andata negli anni 60 circa, però è un romanzo sul periodo bolzanino, incentrato sulla figura del padre. E a parte la scrittura che è eccezionale, ma poi esprime proprio dall'interno del gruppo italiano quegli avvenimenti con forse un fatalismo, un pessimismo che io riconosco un po' in molte persone con cui parlo e che hanno vissuto quegli anni. E per chiudere, ma poi magari ci possono essere altri spunti, C'è poi, ecco, ad esempio, c'è tutta quella letteratura che sicuramente non fa parte del grande circuito diciamo nazionale, però diciamo sono, ho abbastanza anni per capire che non, il fatto di essere pubblicati con una grande casa non sempre, anzi posso dire, non ha un automatico non è un automatico specchio della qualità di un'opera, ecco, nel senso che a volte veramente ci sono libri diciamo pubblicati da piccole case che sono dei gioielli e capolavori. C'è una produzione giovanile che è venuta fuori negli ultimi 15 anni, giovanile parlo di generazione, ecco, è abbastanza interessante, dove la realtà di Bolzano, ad esempio, viene descritta con uno slang, con un linguaggio in cui, accidenti, il tedesco c'è, ma come viene avvertito proprio dal gruppo italiano, cioè nel senso che ci sono anche delle sperimentazioni linguistiche che mi sembrano molto importanti. Boschetti, Nera Neve è un romanzo veramente interessante perché ci sono lacerti di quotidianità molto, molto forti e diciamo... in cui proprio il territorio viene assimilato e raccontato, questa volta con l'occhio diciamo di un italiano. E poi questa cosa del locus amenus è vero, ci sono romanzi, Carezze di luce sulla Val Venosta, o cioè quei romanzi in cui l'Alto Adige è semplicemente uno sfondo in cui ambientare una bella storia di amore, di vacanza, ma ci sono romanzi come Tritolo in cui c'è un locus horribilis, cioè un Alto Adige è praticamente un romanzo che si rifà al mostro di Merano. E in cui l'Alto Adige invece è la terra delle passioni incontrollate, dell'aspetto selvaggio, direi di quella zona oscura non ancora sottoposta al controllo della ragione, per cui c'è anche questo. E ho visto che stanno uscendo molti gialli e anche neri ambientati proprio in Alto Adige, quindi nell'immaginario non c'è soltanto l'Alto Adige da cartolina turistica, ma c'è anche l'Alto Adige dei boschi, dell'oscurità, del mistero. E poi ecco, come mai il gruppo italiano sceglie la parodia? Ecco, si parlava di banda, io ci metterei anche Carnevale e tanti altri. Perché per il motivo che è l'identificazione che non può, cioè praticamente l'identificazione italiana con il territorio non può passare per dei miti. Che all'interno del gruppo tedesco stesso sono ormai distanti, relativizzati, cioè io non me lo vedrei mai un italiano scrivere un romanzo su Andrea Soffer calandosi nei sentimenti, no? Per cui è un giocare con i riferimenti del territorio usando la parodia, però io la trovo già una forma di approccio, cioè non è il non parlarne, è il parlarne ma dicendo ecco io ho questa prospettiva. Ecco, quindi praticamente, ecco, per chiudere, un autore che secondo me invece rappresenta il superamento di tutto questo è Koffler, Gerhard Koffler, purtroppo morto da qualche anno, un grande poeta sul tirolese, che, visto che si parlava di confini, movimento, di lingue, movimento, scriveva in tre lingue, il dialetto, la vera Muttersprache, il tedesco, l'Hochdeutsch, e l'italiano. Lui era cresciuto a Bolzano, poi era nato a Bressanone ma cresciuto a Bolzano, quindi aveva parlato, diciamo, imparato molto bene la lingua italiana, e scriveva lui stesso le lingue. Qualche volta gli venivano in dialetto, qualche volta in italiano, qualche volta in tedesco, e spiegava che venivano a seconda di quello che voleva raccontare, cioè ricordi dell'infanzia gli venivano in dialetto, ricordi dell'università o del periodo liceale in italiano e le altre in tedesco. Ed è, secondo me, veramente forse uno dei culmini a cui può giungere, da un punto di vista letterario, questa terra. C'è una poesia, e qui chiudo, lui amava scrivere queste poesie brevi, queste illuminazioni, prendendo come metafora il calcio, e dice circa, spero, comunque, non sapere, era, il titolo è indeciso, ero indeciso se ti fare per il Milan o per l'Inter. Adesso scrivere in queste tre lingue mi sembra un riabbracciare la mia infanzia, però adesso che ci penso anche la Juventus non mi stava male. E secondo me questa indecisione è il culmine di quello che potrebbe essere proprio la letteratura di un territorio plurilingue come questo. Grazie. Tutte queste belle, interessanti osservazioni, difficile dire qualcosa di interessante. Comunque, io vi dico due cose. Una è una testimonianza di una appartenenza letteraria e storica dal di dentro. Scusate. E una no, non ci sta. Una appartenenza difficile di un tedeschissimo dell'Alto Adige. E vi leggo quello che scrive lui riguardo alla sua appartenenza. Lo leggo in italiano perché è un libro tradotto in italiano dopo che lui lo scrisse in tedesco. E questo signore si chiamava, perché è morto da diversi anni, si chiamava Friedrich Volker. E allora, nella presentazione del libro, che l'ha fatta apposta per l'edizione italiana, l'edizione tedesca porta un'altra presentazione, allora lui racconta della sua appartenenza difficile a questa terra, e non solo, la scrive apposta per questo libro, cioè per noi. Allora dice, comincia così, dice: dite quel che volete, ma è stato bello. Questa frase è stata scelta, lui la scelse, dal famoso critico e autore teatrale berlinese Alfred Kerr, come titolo per una sua opera scaturita da diari, ricordi e pensieri sui fatti del mondo. Le mie memorie potrebbero avere lo stesso titolo. Esse comprendono la gratitudine per la fortuna che la vita mi ha dato, ma anche un tenue soffio di dolore. La strada percorsa dalla culla nella piccola stube della vecchia casetta a Ribnaun, un paesino di montagna sul versante meridionale delle Alpi Stubaier, nell'alta Valle Esarco, per arrivare fino al palazzo di vetro delle Nazioni Unite è stata molto lunga. E come accade per ogni essere umano, questa strada è stata caratterizzata da alti e bassi, da errori e dubbi. Il Sudtirolo, in questo secolo, si è trovato spesso a un bivio. Con esso anch'io ho dovuto decidere che via prendere. Per 5 anni, dal 1914 al 1919, sono stato cittadino austriaco. Poi mi ha preso in consegna l'Italia, anche se io allora non ero ancora in grado di capire che cosa volesse dire questo cambiamento. Non volevo diventare cittadino della Germania di Hitler, anche se gli italiani avrebbero volentieri fatto a meno di me. Questo mio rifiuto in occasione delle opzioni del 1939 mi costò il campo di concentramento nazista di Dachau. Quando finì il terrore della dittatura nazista e io potei finalmente tornare libero, prima di lasciare Dachau andai a salutare il mio compagno di lager, Alfons Gorbach, il futuro cancelliere federale austriaco. Gorbach, che pur era stato decorato con la medaglia d'oro per i suoi atti di eroismo nella Prima Guerra Mondiale, la medaglia non gli era dunque servita per evitare il campo di concentramento, nel salutarmi mi strinse la mano e, pensoso, disse: «Friedl, ricordati di una cosa. Tutti i giorni di vita che abbiamo davanti a noi sono un regalo. A quest'ora, infatti, potevamo essere stati cremati o gettati in una fossa comune come migliaia e decine di migliaia di nostri compagni». Non ho mai dimenticato quelle parole di Gorbach, soprattutto nei momenti più difficili, esse sono state per me la guida suprema. Finita la guerra, speravo di poter tornare cittadino austriaco, ma i vincitori della Seconda Guerra Mondiale mandarono totalmente a monte i miei piani e così ho continuato a vivere da tirolese in Italia. Mi si consenta un attimo di vanità. Sono l'unico uomo politico su tirolese che abbia conosciuto le galere fasciste, quelle naziste e anche quelle dell'Italia democratica. I miei 4 arresti rispecchiano i momenti più difficili della storia tirolese. Non dimenticherò mai l'eco sollevata dal mio 4 arresto nel febbraio 1957, quando ero redattore capo del quotidiano sudtirolese Dolomiten. Un'ondata di indignazione si levò non solo dalla stampa tedesca di ogni tendenza, ma anche dai giornali internazionali. Ci furono atti di protesta da parte di associazioni della stampa. I miei compagni di Dachau mi inviarono lettere di solidarietà. In Inghilterra, alla Camera dei Comuni, furono presentate delle interrogazioni. Gli italiani, costernati, batterono in ritirata. Avevano commesso veramente un grave errore. Dopo 2 mesi e mezzo fui liberato. E con tutti gli onori, in quell'occasione mi sentii quasi una personalità di fama europea. Tra i sudtirolesi la mia attività fu soprattutto rivolta al servizio di coloro che, relegati sul versante difficile della vita, dovevano continuare a rimanervi. Sul piano politico ciò mi ha fruttato ben pochi allori, ma la gratitudine della povera gente, i loro sinceri Vergeltskott, e poi qui mette tra parentesi Dio te ne renda merito, però Vergeltskott è tutta un'altra cosa, spesso pronunciati con le lacrime agli occhi, mi hanno ripagato ampiamente. Sono profondamente grato alla vita perché mi è stato concesso di contribuire alla sopravvivenza del mio popolo, il popolo sudtirolese. Un sottile dolore però rimane, perché nonostante tutto l'impegno non si è raggiunta l'unità politica del Tirolo. Per me essa è rimasta un sogno. Ma la storia non è acqua stagnante, è un fiume. Vorrei esprimere la mia gratitudine anche perché ho avuto la grande fortuna di avere al mio fianco una donna che in ogni frangente della vita mi è stata compagna, non solo amorevole e comprensiva, ma anche molto coraggiosa. Comunque sia, se dovessi ricominciare da capo, vorrei rivivere quasi tutto. Il destino mi ha dato una vita bella ed anche un compito grato. Con i ricordi della mia vita ho voluto dare ai giovani un contributo per la conoscenza della storia del Tirolo in questo secolo. Forse riusciranno in questo modo a capire meglio il passato più recente e ad avere anche loro il loro a capire meglio il passato più recente ed anche il loro presente, e potranno giovarsi delle nostre esperienze se mai dovessero a loro volta trovarsi a un bivio. Un'appartenenza quindi molto difficile, molto tormentata. E la mia riflessione con la quale vorrei concludere questa bella conversazione, la mia riflessione va ad una carenza che noi abbiamo, sia come italiani, diciamo scrittori o persone che riflettono, italiani di madrelingua italiana, sia come tedeschi italiani ma di lingua tedesca. E quindi quello che qui non c'è, e forse è una riflessione che verrà col tempo o forse non verrà mai, ma comunque è una carenza che io avverto, è la letteratura, la scrittura di confine, cioè sia gli scrittori italiani, un po' forse quelli che diceva Romeo prima, quelli dell'ironia, quelli forse un pochino, ma siamo ancora agli inizi, e soprattutto da parte tedesca letteratura di confine non ce n'è, se non se per letteratura di confine si intende, come io intendo, quello che dice Magris a proposito della letteratura di confine. Praga è l'esempio, Magris, alfabeti. Praga è l'esempio per eccellenza di una letteratura di frontiera che induce a un tentativo paradossale, quello di trasfigurare l'irresolubilità dei conflitti quale loro superamento. La frontiera, ossia lo scontro di forze storiche, culturali e sociali, costituisce un bruciante problema. Non potendolo risolvere, si fa del problema la propria ragione di vita e si cerca una identità nell'infinito prolungamento delle contraddizioni che la lacerano. Urcidil, che è uno scrittore sul quale lui riflette per fare questo saggio, Urcidil dice che Praga era la più übernazionale, sovrannazionale, di ogni altra città tedesca. Willy Haas, nella sua Literarische Welt, racconta che Weissenstein Karl, scrittore praghese, divenuto protagonista della novella centrale del trittico di Urcidil, per ricordare come gli parlasse egualmente il tedesco, il ceco, lo yiddish e farne un simbolo della città. Concludo. Come ogni mito, pure quello letterario praghese insegue una identità essenziale al di là del mutamento storico, anche se si nutre di un ricchissimo e stratificato materiale storico. Negli anni 60 gli scrittori che rievocano Praga la mitizzano negli stessi termini in cui essa era stata mitizzata 50 anni prima. La prospettiva di Urcidil o delle memorie di Max Brod o dei racconti di Adler è analoga a quella con la quale Kubin o Meyering e gli stessi Urcidil e Brod da giovani guardavano al loro mondo. La loro nostalgia non va alla Praga perduta, bensì alla nostalgia con la quale negli anni della Praga d'oro i suoi figli si erano rivolti alla sfuggente identità del loro mondo. Il mito di Praga è nostalgia della nostalgia, il rimpianto cartaceo per l'immagine di carta ormai squarciata dalla storia della propria realtà mai posseduta. Basta. Ricordo che anche il professor Romeo ha scritto il libro Limbo di frontiera. Certo, dove, molto bello, sì. Sì, che abbiamo anche qua in biblioteca. Sì. Dove, che è nella mia bibliografia, ovviamente. Ecco, c'è. E forse a volte appunto la differenza. Dovrei di aggiornarlo. Ecco. Dovrei fare una. No, il libro non si aggiorna, no. Non si scrive un altro. Sì. È brutto scrivere aggiornarlo. No, quello è bello così, lascialo lì. Un altro ne devi scrivere. Con l'esperienza, ecco, e la no. Questa idea del confine, no? Che questa idea percepiscono e altri no. È anche interessante il perché forse lo percepiamo magari. Ma io non sento che venga percepita la questione del confine. Non lo sento da parte degli amici di lingua tedesca, perché hanno sempre il sogno dell'unità del Tirolo irraggiungibile. E non lo sento da parte italiana, perché c'è il mito invece dell'appartenenza. Però se posso dire poi ci sono due tipi di italiani, non ce n'è un solo tipo di italiano. Sì, ok. Prego. Io in realtà è stato molto stimolante e verrebbe da dire tante cose e da chiedere tante. Certo. E volevo sottolineare una cosa che è emersa così, poi in realtà è una cosa che dico io, che sia proprio una domanda, in realtà un pochino forse va. E gli esotismi reciproci nel guardarsi a vicenda. Questa storia dello strudel mi ha colpito come una coltellata al cuore, perché lo strudel più buono che ho mangiato era a Budapest ed era fatto con le ciliegie, e il turista italiano non capisce che se c'è un dolce tipico sarà il cuore di castagna, lo zeltem, che sono fatti almeno in parte con prodotti locali come erano i fichi secchi una volta, come erano gli agrumi prodotti anche nelle serre di Bolzano, e che veramente lo strudel, ad esempio, non so, i triestini lo ritengono un piatto triestino, ho visto che in realtà è un piatto di tutta l'Austria-Ungheria con propaggini in Boemia, eccetera, dove si mangia anche molto buono. E allora, siccome è proprio caratteristico che il turista deve mangiare lo strudel, che si mangia benissimo anche a Trieste, e ecco, secondo me hai toccato veramente un punto notevole. Un altro esotismo, scusate, è proprio quello del carabiniere, secondo me. Ossia, è vero che l'abitante delle valli viene a conoscenza dell'Italia tramite il carabiniere, ed è un dato di fatto. Però non è veramente rappresentativo il carabiniere meridionale della popolazione italiana dell'Alto Adige, che di solito è un contadino diventato operaio del Veneto, della Lombardia o al massimo trentino, un'origine in prossimità che può essere trentina, bellunese, eccetera. Ecco, sì. E forse perché questi sono andati a stare in città che forse hanno fatto meno conoscenza con i tedeschi, e di fatto l'italiano di frontiera è in maggioranza, forse adesso bisogna vedere le statistiche, un meridionale che sta nelle valli, ed è poi quello che si assimila prima, paradossalmente, con delle conseguenze interessanti. Però ho l'impressione veramente che anche, almeno in questi autori, l'italiano sia un soggetto più esotico di quello che è. Di quello che siamo noi. Sì, e io faccio una critica alla Pinuccia, perché secondo me il romanzo che lei ha tradotto è anche un romanzo di frontiera. Perché c'è questo personaggio, che è l'unico italiano positivo in tutto il romanzo di Gatter, che è un montanaro della carne che fa il muratore, che ha dovuto abbandonare, ed è uno dei pochi personaggi totalmente positivi. Il Gianni. Sì. Il Gianni. E lui riconosce, fa tutte delle pagine, sono mezzo carnico per cui la sento la cosa, però su questa comune identità alpina che ormai in pochi capiscono, e sui vocaboli che adesso sono quasi estinti, che si usavano in dialetto tirolese per indicare questi che, nonostante la lingua diversa, erano sentiti come parte della stessa civiltà. E benché inserito in un ambito molto rustico, molto contadino, se vogliamo, molto tirolese, lui apre, riguardo al passato, una cosa che forse nella letteratura posteriore è estinta, che è questo aspetto. L'idea che comunque le Alpi erano uno spazio di mobilità, c'erano anche queste donne che andavano a vendere, che probabilmente venivano da Erbe Casso, perché erano loro che facevano questo mestiere, andavano a vendere codelle e mestoli di legno, c'erano questi muratori che invece probabilmente venivano proprio dalla Carnia, che erano gente che il tedesco lo sapeva. Vabbè, ci vedo la storia di parte dei miei antenati, ma un piccolo aspetto secondo me proprio di frontiera di confine c'è anche in questa letteratura, forse poi nel seguito viene chiuso. Grazie. No, i due italiani che intendevo io sono i due italiani autoctoni, adesso parlo di allora e adesso non si sente quasi più. Gli italiani autoctoni che parlavano in italiano, però vedevano come frontiera gli italiani, quelli che stavano in Italia, che dicono, parlando degli italiani entrati in Alto Adige, italiani che si differenziano dagli italiani migrati in Alto Adige. C'è una differenza. Italiani sono quelli là, sì. I milanesi, sì, italiani, sì. I teroni, ecco, quelli lì. Gli italiani che però si sentono di questo territorio erano quelli autoctoni. E trovare uno scrittore come lei cerca, italiano, no, che scriva di quei momenti, mi sembra quasi impossibile, perché chi ha vissuto quei momenti doveva descriverli in quel momento, a quelle condizioni, e con tutto il resto gli italiani di oggi non potranno mai descrivere quello che è stato. Ma quello di oggi sì, lo potrebbero scrivere, non lo scrivono, questo è il problema. Quello di oggi potrebbero scriverlo, quello di allora non potrà mai scrivere nessuno. Stanno scrivendo, quello di allora non lo potrà mai scrivere nessuno, perché c'era un immigrante che veniva qua con la presunzione di essere il padrone, perché era già stato indottrinato e avevano detto: quella terra è nostra, tu vai là e fai quello che vuoi. Cioè, era una guerra fra poveri, e c'erano i tedeschi di qua che si vedevano superati dagli italiani che erano dei conquistatori. Sì, quel terribile ventennio, sì, tu parli di quel periodo là. Capito. No, ma una letteratura, come dire, vera, autentica, su quegli anni è quella infatti trentina, cioè nel senso dobbiamo andare a cercare lì, no? Le radici, come dire, degli italiani che c'erano prima. Oh, sì. Quando Guerra c'è Beppe, che lo dicono i trentini, è classico. Infatti, sì. E no, era interessante quella, sì, delle come dire, delle immagini cristallizzate, eccetera. È vero proprio questo, cioè da un lato l'urgenza, non so, turistica, la logica delle comunicazioni, dell'immagine, appiattisce molto quello che è la realtà storica, cioè nel senso che noi parliamo sempre di questa terra come una terra plurilingue in cui si incontra, però ci crediamo poco, nel senso che invece poi l'immaginario è che questa fosse una terra tedesca, totalmente tedesca, e che con l'annessione è come se venissero gli americani, insomma, cioè un nuovo popolo sconosciuto. Invece i rapporti c'erano, sono sempre stati. Ci sono sempre stati. Ecco, quel mondo fragile che era il vecchio Tirolo, vecchio Tirolo storico, viene semplificato, schematizzato, purtroppo, sia per colpa di quei vent'anni di propaganda fascista che ha cercato di cancellare, no, tutto, e sia forse anche adesso nella divulgazione, cioè nel senso che il pericolo sta proprio nella divulgazione, e la letteratura purtroppo è spesso il primo veicolo di informazione storica con il cinema, no? Di massa, per cui bisogna stare molto attenti proprio sulla precisione delle informazioni. Ma forse non è un caso anche che i primi segnali che si vedono sono quelli della memorialistica, perché certo, questo ricordo che accomuna tante persone, ma è anche neutrale tutto sommato, perché gioca più sulle emozioni più che su delle verità. Anche il romanzo storico, no? Forse, secondo me, per lo stesso motivo. Sì, allora questi stanno prendendo piede, si vedono, no? Appunto delle rivisitazioni in chiave storica di episodi. Appunto, qualcuno citava Paolo Valente perché anche lui ha fatto un lavoro, sì, magari sulla sua famiglia, sì, in particolare. Ecco. Ci sono appunto degli aspetti che stanno nascendo, si stanno affermando, però sempre partendo da una matrice di memorialistica, mm-hmm, non una narrazione che sottende ad altre. Ha un metabolismo, diciamo, sì, già via. Più metaforico. Ecco, mm, sì. E poi ricordo, è una cosa che non puoi toccare, insomma, non puoi analizzare, verificare. Sì, o è meno anche scivoloso di altri. Stigmatizzare, di, ma insomma, sì, è un terreno già più libero per certi versi. No. Forse abbiamo bisogno ancora di tempo. Non lo so. Vuole parlare, signore? Ricordavo che Paolo Valente, insieme a una memorialistica con Petrazzoli, che scriveva con un racconto, riscatta la figura del maestro italiano, sì, di quell'epoca, che viene distrutta invece da Karl Reimer, proprio porta un maestro veramente podestà, eccetera, eccetera. Mm-hmm. E sono, no, a caso di questi argentini, no? E c'è questa appartenenza che non è, cioè c'è questo, sì, mito della non appartenenza. C'era gente, c'era quel 3% che c'era prima, quello c'era già. Non dimentichiamoci, e oltre a quello c'erano gli altri che avevano vissuto, che venivano qui in quegli anni e non pretendevano di parlare italiano, perché sapevano che funzionava austriaco, quando loro erano bambini parlavano italiano, quindi per loro non era spontaneo imparare il tedesco. Era gente diversa, non dimentichiamoci, insomma, salviamo questa categoria. Sì, Hannes, posso dire una cosa prima che tu intervenga? Io naturalmente devo dire che, primo, non ho letto tutto quello che è stato pubblicato. Meno male, così hai parecchio da fare. Sì, no, non potevo, già ci ho messo 10 anni a capire che potevo laurearmi. No, io ho avuto anche l'esigenza, trattandosi di una tesi di laurea e non di una tesi di dottorato, per esempio, e tantomeno di un'enciclopedia, di fare una selezione. E presentando io la tesi a Bologna, da un relatore che non è nemmeno tedesco, insomma, non è un germanista, naturalmente ho avuto l'esigenza di proporgli degli autori che potessero risultargli in qualche modo. Potessero risultare, insomma, non so neanche io che parola usare, sì, più interessanti o più gradevoli di altri, quindi non ho potuto proporgli, ecco, gli autori che diceva il professor Romeo, ho dovuto cercare figure un po' più riconoscibili. Ecco, questo è il limite le premesse della tesi, se vogliamo, anche, è anche il suo limite, quindi riconosco che le cose che sono state dette sono giuste e continuo a leggere. Ovviamente il mio lavoro non è finito, anche se per mio esclusivo interesse, ma ribadisco che secondo me non, ecco, forse su questo punto concordiamo, non esiste una letteratura di italiana che abbia valicato i confini di questa provincia, e non solo per questioni editoriali. Poi concordo col professor Romeo che dice una grande casa editrice non è garanzia di qualità. No, perché Eva Dorma è stata pubblicata da Mondadori, e questo no, ecco, che non conosco in generale, cioè no, se guardiamo, certo che in generale, però in generale se guardiamo i titoli che escono, insomma, in generale, no io, francamente ci trovo poco. Ecco, concordo pienamente, però anche in un altro senso. E ecco, naturalmente io ho dovuto scegliere, un professore di Bologna non ho potuto presentare, certo, la miriade di Paolo Carnevale No, ma poi ha un senso per il dato, diciamo, oggettivo, che delle vendite, cioè è probabilmente il libro che è stato letto come immagine dell'Alto Adige in Italia, è stato forse il romanzo più sì, letto, quindi questo è un dato oggettivo, e certo, quindi legittima assolutamente la scelta. Io soltanto ci tenevo a precisare che una produzione letteraria c'è. Ecco. Hannes, volevo solo aggiungere una osservazione, Laisa, che sì, sì, a parte che mi ha affascinato, no, il racconto davvero brillante che hai. Mi sembra, poi sono molto curioso anche leggere il libro per intero. Cioè, non è un libro, è una tesi di laurea. Cioè, una tesi di laurea, sì. No? Cioè, che comunque io considero un libro. Ma si legge come un libro. Si legge come un libro. Si legge come un libro. Diciamo, tu hai avuto il coraggio di porre la questione della qualità, mi sembra, no? Cioè, hai lavorato. Beh, sì. Con strumenti scientifici, nel senso della letteratura, che si sa tutto cuore, no? Cioè quella di della filologia, di analizzare, e quello trascende ovviamente la lingua nella quale è stata scritta un lavoro, no? E sono criteri anche oggettivi, se così vogliamo dire. Pertanto hai posto il tema della genealogia, no? dei testi, e quello mi sembra molto interessante, cioè ricreare questi filoni nascosti o visibili che poi partono dal film, entrano nel romanzo, rispuntano nei vari testi, e quello poi consente anche, sì, di è stato il tema del, come dire, della appartenenza, come dire, linguistica e etica di un libro, che è un'assurdità, peraltro, no? La polemica che abbiamo per fortuna solo tangenzialmente nominato ha ruotato anche intorno a questo. Cioè mi è stato contestato, dunque, della tesi ha parlato per primo l'FF, il giornalista Georg Mayer, che si occupa di cultura. E poi è stata ripresa dal Corriere dell'Alto Adige, e sul Corriere dell'Alto Adige, due o tre settimane dopo l'articolo che riguardava la mia tesi, è comparso un intervento veramente molto duro nei miei confronti, molto molto becero, duro nei miei confronti, no, becero, via, hai ragione. Sì, becero. Di un ordinario di Milano, che però è un alto atesino, insomma, sì. Quello che ha fatto la prefazione al romanzo di Tulmler, sempre pubblicato da me. Ecco. Che abita in via Cesare Battisti. No, vabbè, adesso non è che arrivo. Così dopo siamo vicini. Allora, in cui... No, ti prego, finisci. No, nel senso che mi è stato contestato di non aver tenuto in conto quello che dice Hannes, che però tu dici adesso in un altro senso, cioè l'intertestualità, ovvero il rapporto tra i testi. Nessun libro è stato scritto per... la mia non voleva, no, infatti capisco, però dico così completiamo questa storia della tesi. Cioè nessun libro viene scritto prescindendo da ciò che è stato pubblicato prima, e non ho tenuto conto di questo fattore. Cioè semplicemente un autore studia, uno scrittore studia la propria materia, studia i propri autori, e però il romanzo è valido, lo dice anche Carlo Romeo. Ecco, io però penso che sì, che sia un romanzo efficace, capisco benissimo quello che è stato detto, però credo che in questo caso l'intertestualità c'entri poco, nel senso che quando un testo, io poi ho replicato perché l'intervento era stato veramente duro, insomma, mi si diceva che che sono un ignorante, ecco, sì, che sì. Se avessi continuato a cercare avrei trovato altri calchi, ma che comunque è perché non conosco tutto che non ho trovato le altre cose. E che sono una studentessa, insomma, praticamente. Mentre lui è un grande professore. No, va bene. Allora io di questa. E dei salotti buoni, e che non ha scritto niente. Vabbè, sì. di questa obiezione contesto due cose. La prima è che secondo me l'intertestualità in questo caso non c'entra molto, perché il romanzo, per come lo valuto io, il romanzo di Francesca Melandri non arriva a qualcos'altro partendo da dei testi, è un compendio che però inferiore agli altri, insomma, che non ha una rielaborazione propria. Allora, se un testo A cita B, vuole essere più di A, non vuole essere meno di A. E se un libro si risolve, questa è una citazione di Croce, se un libro si risolve nelle fonti vuol dire che non c'è, insomma, ecco. E la seconda cosa che contesto, se posso dire poi taccio, è che mi si possono contestare le conclusioni, si può discutere di tutto, però che io non potessi fare l'operazione che ho fatto... Perché era una studentessa. Ma se una studentessa non fa una tesi di laurea, cosa deve fare? Allora, se vogliono discutere tra accademici, che aboliscano l'obbligo delle tesi di laurea, ecco, solo questo. Ho finito. Valeria, è tardissimo. Voglio un libro che dà tanti spunti anche. Per esempio, uno piccolissimo, ma per me è stato il libro, importante. La tesi. Ah, sì. È un libro. È stato il discorso sul fatto che si levassero delle piante autoctone, parli di natura, e si portassero le piante italiane per farne crescere qui ulivi, il Populus Italica Nigra Italica. Sì, è una cosa che sì, un passo che prendo da Gatterer, però non mi ricordo dov'è. Comunque è una cosa molto interessante che Gatterer scrive con grande efficacia. No, era il Podestà Monteforte, il Podestà di Sesto, che a un certo punto decide di togliere le. Portava a Sesto, ecco, e dice. A qualcuno di noi, allora. Cioè, la pianta più difficile da gestire anche, con la neve e tutto, infatti continuano a battere. Sì, dice insomma che a qualcuno, che ai contadini viene imposto di piantare i pioppi, sì. E Gatterer scrive: a qualcuno di noi riuscì perfino di piantarlo con le radici rivolte verso l'alto, e questo senza che nessuno se ne accorgesse. Prima parlavi dell'urbanistica, del paesaggio, eccetera, ed è vero, perché se tu pensi anche solo a Sinigo, nella zona del campo sportivo, anche in altre zone costruite in quel periodo, sono tutto pioppi e sopravvivono ancora. Una pianta perché il pioppo, sì, in Viale Truso, perché il pioppo, il nome scientifico è Populus nigra italica, era considerata pianta italianissima. Allora, se posso dire un'ultima cosa, perché vi vedo anche interessante, non so. Sì, no. Allora, c'è questo episodio in Gatterer che secondo me è veramente proprio significativo, molto ben scritto, efficace, no? Che dice appunto: i contadini erano perplessi perché abeti, pini, frassini, ma i pioppi, ecco, pioppi che naturalmente alla prima gelata invernale furono sacrificati, e ne rimase solo uno, stenterello per sempre. Allora, questo episodio dei pioppi c'è anche in Zoderer, quando il padre questo volevo dire molto brevemente. E anche nel Dolore di cambiare pelle c'è l'episodio dei pioppi, c'è il padre, l'avvocato fascista Agrigentino, nella tenuta sul terreno della montagna decide anche lui di sradicare le conifere e mettere i pioppi. Allora, questa può essere una ripresa, perché no? Io non lo so, però potrebbe essere una ripresa di Gatterer, però in Zoderer ha veramente un'altra valenza. E non è un calco funzionale alla trama. Adesso io non è che voglia parlare male, ma insomma, ecco, questa è la mia analisi e così io la presento. Allora, in Zoderer invece si toglie tutto per piantare le patate, poi si mettono i pioppi e poi però la natura riprende il sopravvento e a un certo punto Mara porta il suo amato Yul a vedere che c'è ancora qualche pioppo qua e là, ma simbolicamente e significativamente soffocati dalle conifere che poi negli anni, perché insomma queste sono le nostre piante, non i pioppi, le nostre. Ecco, allora, però in Zoder era una valenza. Ecco, mi è sembrato questo, io credo di averlo chiarito questo concetto, non mi dilungo oltre. Ecco, c'è proprio un peso letterario di urgenza narrativa che salta agli occhi a chi insomma ha un po' di consuetudine con la narrativa, con i romanzi. Ecco, forse basta. Qualche domanda? Grazie, è stato veramente molto interessante.